Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve e un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che mette al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 696 e parleremo dell'alluvione in Romagna, di cani e di orsi, di scelte di governo e di intellettuali globali. La ricetta della settimana, come al solito, è curata da Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, mentre la colonna sonora è competenza di Gianluca Masala. La tragica alluvione in Romagna delle settimane scorse, va da sé, non ha risparmiato gli animali. Tutti gli animali, ma in primo luogo quelli di allevamento, tenuti prigionieri e spesso impossibilitati anche a tentare la fuga per salvarsi dalle acque. Fra le tante immagini che abbiamo visto, ricordiamo quelle di decine di maiali annegati. Immagini che turbano per la pena che si prova a vedere quei corpi gonfiati dall'acqua e però anche per le contraddizioni che scatenano. Viene da chiedersi se quella fine, pur così orribile, non sia stata anche una liberazione, vista la vita che gli animali prigionieri conducono negli allevamenti. Sono pensieri disturbanti. Fa anche riflettere il doppio binario sul quale si sono incamminati i commenti. Da un lato il dispiacere per la fine violenta degli animali, ma insieme anche la considerazione sul danno economico subito dagli allevatori. Ed è quest'ultimo aspetto, generalmente, il pensiero che prevale. Tante sono le contraddizioni in questa relazione ambigua con esseri viventi che restano tali, seppure ridotti a merce, a materia prima, che anche salvataggi dalle acque, quando avvengono, lasciano interdetti. Che fare di un animale recuperato in tempo dalla furia dell'alluvione? Salvato da cosa, se il suo destino non cambia e resta quello di essere allevato fino al peso giusto per essere poi soppresso? È la domanda che si sono fatti gli attivisti dell'associazione animalista di Parma, Meta, per poi rivolgere una petizione al sindaco di Ravenna e presidente della provincia di Ravenna, Michele De Pascale, per chiedere di salvare un maialino scampato a Faenza all'alluvione. Il maialino era riuscito a scappare e a mettersi al sicuro in un giardino, venendo lì accudito dai cittadini che lo avevano trovato, disposti ad adottarlo o a trovargli sistemazione in un rifugio per animali. La sua storia, come spiegano gli attivisti di Meta, era finita anche su TikTok, divenendo quindi di pubblico dominio, prima che, dietro una segnalazione, l'animale venisse però riconsegnato, come prevede la legge, all'allevatore suo proprietario. Questo, dicono quelli di Meta, significa che il maialino, dopo essersi salvato, finirà al mattatoio, perché il lavoro degli allevatori di suini consiste in questo: allevarli per mandarli al macello. A Faenza, dice ancora Meta, sono morti annegati oltre 600 suini. Circa 200 sono riusciti a scappare, ma gli allevatori non hanno alcuna intenzione di graziarli. Da qui l'appello online rivolto alle istituzioni. Chiediamo un gesto di umanità per questa creatura, dice Meta, perché è possibile salvarlo. Basta solo volerlo, basta solo riprenderlo dal luogo in cui è stato portato e affidarlo a un rifugio per animali. Ci associamo senz'altro a questa richiesta che ci aiuta a riflettere sulla reale condizione degli animali nella società presente. L'alluvione in Romagna per qualche giorno ha riportato l'attenzione attorno alla questione chiave del nostro tempo, ossia il collasso climatico, che sembra lontano dall'attenzione non solo dei decisori politici, ma anche del mondo della cultura. Qualche anno fa Amitav Ghosh, scrittore e saggista indiano, molto presente nel dibattito internazionale, contestò agli scrittori, ai filosofi, agli intellettuali proprio l'incapacità di mettere al centro dell'attenzione la questione climatica. Lo fece in un libro titolato La grande cecità, uscito nel 2019. Un libro ancora attuale, nonostante qualcosa in verità sia cambiato, sia nella frequenza degli eventi estremi, sia nell'attivismo ecologista. Si pensi a movimenti come Extinction Rebellion, Just Stop Oil, Ultima Generazione. Ma il mondo della cultura fatica ancora a mettere a fuoco questa problematica così importante e così decisiva. Ghosh ora ha pubblicato un nuovo libro, stavolta un romanzo, che narra tuttavia una storia vera, ossia la distruzione di un intero popolo sull'isola di Banda in Indonesia da parte dei coloni olandesi per appropriarsi di una materia prima preziosa, la noce moscata. Il libro, pubblicato dall'editore Neri Pozza, si intitola appunto La maledizione della noce moscata e individua nel colonialismo, nell'estrattivismo, l'origine di molti disastri presenti. Ghosh nei giorni scorsi ha partecipato ai dialoghi di Pistoia e in un'intervista alla Lettura, il settimanale culturale del Corriere della Sera, ha espresso valutazioni che ci paiono interessanti. Stiamo capendo il carattere profondamente fuorviante di quasi tutte le idee in cui alle persone molto istruite è stato insegnato a credere. Se ad esempio per il pensiero moderno era impossibile attribuire una soggettività o una personalità a un fiume o a un ghiacciaio, in questi ultimi anni molti tribunali, con le loro sentenze, hanno confermato la tesi che fiumi e ghiacciai abbiano una personalità, cosa che sarebbe stata inimmaginabile anche solo 10 anni or sono. Da questo punto di vista, il movimento per i diritti della natura mi sembra di primaria importanza. Sono molto importanti anche i vari movimenti guidati da indigeni e imperniati su una certa concezione del rapporto fra gli umani e determinati spazi. Penso al movimento che in anni recenti, nello stato indiano dell'Orissa, ha visto gruppi tribali lottare contro progetti di estrazione mineraria della bauxite dal sottosuolo delle colline Niamgiri. Penso alle grandi proteste degli ambientalisti del Canada e degli stati settentrionali degli USA contro il progetto del gasdotto Dakota Access. Quelle proteste hanno raggiunto i loro obiettivi perché non avevano motivazioni prettamente politiche, bensì prendevano di mira proprio i paradigmi dominanti della modernità. Una componente centrale di questi movimenti è rappresentata dal riconoscimento della sacralità della terra. E poi, a proposito del rapporto fra guerre e cambiamenti climatici, altro tema incombente, Ghosh dice: «Sì, penso che un rapporto fra cambiamento climatico e militarizzazione esista, e anzi si sia fatto ancora più evidente rispetto a quando ho scritto La maledizione della noce moscata. In quelle pagine si legge: è un grave errore credere che il mondo non si stia preparando alle devastazioni del futuro. Semplicemente non si prepara assumendo misure di mitigazione o riducendo le emissioni. Si appresta invece alla guerra. In tutto il mondo, conclude Ghosh, negli ultimi anni abbiamo assistito a un massiccio aumento delle spese militari e delle attività belliche, mentre le spese per la mitigazione del clima restano trascurabili. Mi sembra chiaro che il mio pronostico era azzeccato». Così Amitav Ghosh, intervistato dalla Lettura. If you didn't care, what happened to me? I didn't care for you. We would zigzag our way through the bottom of pain, occasionally glancing up through the rain, wondering which of the bugs to blame. And watching for pigs on the wing. Nei giorni scorsi l'associazione Animalisti Italiani Onlus ha celebrato il suo 25esimo compleanno e il presidente Walter Caporale ha colto l'occasione per fare il punto su alcune questioni di attualità legate anche alle scelte compiute dal nuovo governo, il governo Meloni. Primo punto critico, secondo Caporale, il no dell'Italia alla carne coltivata. L'Italia, ha detto il presidente di Animalisti Italiani, è il primo paese al mondo che ha vietato la carne ottenuta dalle cellule staminali, carne che potrebbe salvare miliardi di animali. Lo ha fatto per difendere una lobby potentissima, quella dei produttori di carne, ma è una scelta che non ha alcun senso se non quello di farci tornare indietro. Il futuro, dice Caporale, è la carne coltivata, non quella ottenuta dalla sofferenza degli animali. Altro snodo critico, l'emendamento approvato a dicembre per favorire l'uccisione degli animali selvatici o considerati problematici nei pressi dei centri urbani. Un emendamento gravissimo per Caporale, perché apre le porte in Italia alla caccia nei parchi regionali e nazionali. C'è poi la questione degli animali nei circhi, vietati in virtù di una legge approvata nella precedente legislatura, ma ancora in attesa di un decreto attuativo, che il governo ha rinviato all'anno prossimo. Ulteriore capitolo, infine, quello degli allevamenti da pelliccia. In Italia devono chiudere, dice Caporale. La legge li ha aboliti, ma ci sono alcune decine di migliaia di visoni che aspettano ancora di sapere che fine faranno. Just a song. Sound, it's easy to get burned. When the shows were over, we had to get back home. And when we opened up the door, I had to be alone. She helped me with my suitcase. She stands before me. Nei giorni scorsi il TAR di Trento ha nuovamente fermato l'ordinanza del presidente della provincia autonoma, Maurizio Fugatti, che disponeva l'uccisione dei due orsi prigionieri nel recinto del Casteller, alle porte della città. Il caso giudiziario è tuttavia ancora aperto e si prospetta la possibilità di un trasferimento dei due animali in un altro luogo, probabilmente in un altro paese. La LAV, Lega Antivivisezione, sostiene di avere già individuato una possibile destinazione in Romania. Proprio la LAV annuncia di avere presentato due nuovi ricorsi al TAR in merito all'ordinanza di abbattimento di MJ5 e JJ4 per contrastare le linee guida provinciali sulla gestione e l'uccisione degli orsi e il documento ISPRA-MUSE sugli orsi etichettati come problematici. Secondo la LAV, le linee guida mancano di qualsiasi riferimento alla programmazione delle misure di prevenzione e si tratta quindi di mere linee guida che nella loro genericità costituiscono la base per nuovi incidenti, per la creazione di fatto di orsi problematici e le conseguenti ordinanze di uccisione degli orsi. Quindi linee guida che sostanzialmente capovolgono le proprie stesse finalità. Secondo la LAV ancora non c'è nessun cenno in questo documento alle misure non cruente da adottare in caso di orsi problematici, essendo di fatto prevista sempre e soltanto l'uccisione degli animali. Il TAR nel 2022, ha commentato Massimo Vitturi, responsabile dell'area animali selvatici della LAV, ha però giudicato inammissibile il ricorso e abbiamo quindi appellato al Consiglio di Stato la decisione. Ma nel mentre proporremo un nuovo ricorso su questi aspetti. Le contestate linee guida trentine sugli orsi possono essere confrontate con i consigli del National Park Service statunitense, l'ufficio federale che si occupa del coordinamento dei 424 parchi nazionali. Nelle aree protette degli Stati Uniti vivono migliaia di orsi, che sono mediamente più grandi di quelli europei. E va detto che i parchi statunitensi sono visitati ogni anno da milioni di persone. I ranger che hanno preparato questi consigli hanno una grande esperienza nella gestione e nella convivenza con i plantigradi. Il primo consiglio è quello di consultare i siti dei parchi e di farsi consigliare dagli operatori locali. Dicono i rangers che bisogna essere accorti, soprattutto dove gli animali possono non essere visti, quindi erba alta, vegetazione fitta, creste di monti. Bisogna poi camminare in gruppo, in modo da ridurre i rischi, perché il gruppo fa più rumore del singolo ed emette anche un odore più forte. L'animale così sente la presenza, rimane intimorito dal numero di individui e si allontana. Per i rangers è invece altamente sconsigliato mettersi a correre. Piuttosto è preferibile fare rumore quando si fa un'escursione, parlare con gli amici, cantare forte, gridare, battere le mani. Il baccano infatti avverte l'animale e lo spinge ad allontanarsi. Non servirebbero invece molto i campanelli per orsi, perché l'animale, quando li sente, è ormai troppo vicino. Ancora meglio non muoversi all'alba, al tramonto e di notte, perché questi sono i momenti in cui i plantigradi sono più attivi. Quanto ai cani è meglio lasciarli a casa, perché possono irritare gli orsi e quindi attirarli. Non bisogna poi assolutamente lasciare cibo in giro. Questo sì che attira i plantigradi. Nel caso in cui si veda un orso, prima che l'orso veda la persona, bisogna allontanarsi con calma, senza perderlo di vista, tenendo ben presente che sorprenderlo può causare spavento e indurlo ad attaccare. Bisogna assolutamente evitare di avvicinarsi ai cuccioli. Se l'orso poi ti vede, non bisogna fuggire, ma indietreggiare lentamente, agitando le braccia sopra la testa e parlandogli con voce calma, senza guardarlo negli occhi. L'animale deve capire che sei un essere umano e che non sei una minaccia. È poi possibile, dicono ancora i rangers, che l'orso faccia un falso attacco per spaventarti e allontanarti. Ti viene addosso, assalti, poi si ferma. In questo caso non bisogna cambiare atteggiamento né mettersi a correre. Questo sì che potrebbe spingere l'orso ad attaccare. Fuggire è inutile, precisano i rangers, perché l'orso è ben più veloce di un essere umano. Ed è anche inutile arrampicarsi sugli alberi. Il plantigrado è in grado di farlo meglio degli umani. Se poi l'animale comunque attacca, è un'ipotesi rara ma non può essere esclusa, i rangers danno consigli differenti a seconda del tipo di orso con cui si ha a che fare. Con gli orsi neri, che sono più piccoli e paragonabili a quelli europei, bisogna difendersi in quel caso con tutto quello che si ha. Pietre, bastoni, spray per orsi, che i rangers USA consigliano ma che in Italia è vietato. Per i grizzly, che sono più grandi e aggressivi, l'unica possibilità di salvarsi è fare il morto, quindi buttarsi a terra pancia in giù, coprirsi la testa con le braccia, aprire le gambe e non fare rumore, sperando che l'orso si convinca di non avere più di fronte un pericolo e se ne vada. C'è da chiedersi se consigli così precisi e così dettagliati siano mai stati dati ai cittadini trentini, che avrebbero diritto a una formazione sulla convivenza con l'orso, forse migliore di quella che hanno avuto finora. I found my own true love was on a blue Sunday. She looked at me and told me I was the only one in the girl awaits for me in tender time. My girl is mine, she is the world, she is my girl. My girl awaits for me in tender time. My girl is mine, she is the world, she is my girl. Torniamo a parlare di cani e lo facciamo ancora con il gruppo Troglodita Tribe, che negli ultimi anni ha dedicato una attenzione particolare a questi animali, con uno sguardo decisamente originale e innovativo. Ora Troglodita Tribe pubblica un nuovo libro, Cani e Catene, pubblicato dalle edizioni Malamente. Ce ne parla Fabio, dei Troglodita Tribe. L'idea di scrivere questo libro, Cani e Catene, pubblicato dalla particolare e coraggiosa casa editrice Malamente di Urbino, ha iniziato a germogliare come un desiderio di rivalsa mentre osservavamo i tanti cani ancora alla catena, soprattutto nelle campagne. Era un'idea che giorno dopo giorno cresceva esponenzialmente insieme al senso di impotenza che ti prende quando provi a intervenire, a denunciare, a ribellarti. Ma in realtà abbiamo sentito l'impellente necessità di realizzarlo proprio mentre scoprivamo che molta gente vede e considera queste catene come un retaggio antico, come una pratica meschina ormai superata dal buon senso e dalla sempre più diffusa empatia nei confronti dei cani, cani che continuiamo a definire i nostri migliori amici. Nella realtà dei fatti, invece, le catene, nonostante il loro evidente portato simbolico, sono ancora diffuse, soprattutto sottovalutate. Sono un punto nero nel paesaggio che tendiamo a ignorare, a volte anche a giustificare, ricorrendo alla retorica del cane da guardia. Vedi il cane, vedi la catena, senti abbaiare e passi via velocemente, allunghi il passo. È un cane da guardia, ti dici, è un cane feroce e pericoloso. Va a finire che non riesci più a renderti conto che sei di fronte a un prigioniero disperato, un individuo che non ha la possibilità di vivere, di comunicare, che vede consumare la sua esistenza nei pochi metri disponibili. Studiando il mondo dei cani e delle catene è nato allora questo libro, che non le inquadra come un semplice particolare da correggere per mezzo di qualche legge regionale, ma come un vero e proprio errore di sistema, come un elemento strutturale delle nostre società speciste, un elemento che ci riguarda molto da vicino e che caratterizza fortemente il nostro rapporto con i cani. Spezzare queste catene, allora, è un atto indispensabile e urgente di cui dobbiamo farci carico, perché è letteralmente impossibile pensare nuovi mondi, anche solo sperare in una liberazione umana e animale, se ancora esistono catene che ci impediscono di evolvere. Il libro è una via di mezzo tra la narrazione e il pamphlet di critica radicale. Contiene storie di cani e umani che non ci stanno, che spezzano e sganciano le catene. Ci sono i pensieri e le considerazioni delle persone a cui abbiamo chiesto cosa provano quando vedono un cane alla catena. Ci sono le conseguenze devastanti che le catene determinano sulla vita dei cani. Viene smascherato il gioco cinico fondato sul dominio e il controllo della bestia feroce che incute terrore per fare la guardia. Un gioco antico e incredibilmente ancora vivo e vegeto nel nostro immaginario di persone consapevoli ed evolute. In senso più ampio, viene messo a nudo il nostro reale rapporto con i cani, il nostro gestirli e considerarli una proprietà che si vende e si compra, attorno alla quale girano interessi e denaro sempre mascherati da buoni sentimenti. Troverete anche un lungo racconto distopico dal titolo Grave errore di sistema, i cui personaggi sono un umano, un cane alla catena e una robottina pulitrice. Ma abbiamo potuto contare anche su un'illuminante prefazione del giornalista antispecista Lorenzo Guadagnucci, che riesce a cogliere e ad amplificare in modo estremamente chiaro la connessione di queste catene, che leghiamo al collo dei cani, con la nostra società fondata sul dominio, l'intolleranza e la paura del diverso. Troglodita Tribe, Cani e Catene, edizioni Malamente, 112 pagine, 10 euro. La ricetta della settimana, curata come al solito da Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, è dedicata stavolta agli alluvionati della Romagna. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. La ricetta di oggi ci racconta la tradizione della cucina povera di una terra che in questi giorni si trova tristemente sotto i riflettori per le recenti alluvioni. Tanta solidarietà a tutte e tutti. E cara Presidente, se questo non è il momento delle passerelle, non farle. Gli ingredienti per 4 persone per il frigione bolognese sono 2 kg di cipolle bianche, 400 g di pomodori maturi, un cucchiaino di zucchero di canna, un cucchiaino di sale grosso, olio extravergine di oliva e pepe nero. Sbucciate e affettate le cipolle sottilmente. Mettetele in una bulla assieme allo zucchero e al sale, mescolate bene e fate riposare almeno un paio di ore al fine di far perdere l'acqua di vegetazione. Trascorso il tempo necessario, versate le cipolle e tutto il loro liquido in un tegame. Aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine e lasciate a fuoco basso per 2 ore, mescolando di tanto in tanto, facendo attenzione che non si attacchi al fondo. A fine cottura aggiungete i pomodori che avrete precedentemente spellato e tagliato a cubetti. Aggiustate di sale e pepe e quindi lasciate cuocere ancora per un'ora a fuoco molto molto lento, fino ad ottenere una salsa cremosa che potrete servire calda o fredda con una bella macinata di pepe fresco prima di portare in tavola. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Valentina Reggioli, Anna Granata, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti, Francesco Panier, Zenone Sovilla e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.